Marley. Ma che morbidezza oggi, bentornati, bentornate a Radio ZM e Bob Marley. Buonasera a tutte e tutti. Buonasera, buonasera, 18:15, oggi anticipiamo di brutto, ma ci piace così, ci piace spiazzarvi, tanto le comunicazioni sui vari social di merda l'abbiamo fatta, stiamo registrando, quindi il podcast verrà creato. Qua c'è qualcuno che è impaziente di parlare, ma ve lo svegliamo fra poco. Intanto, Gigi, come stai? Ma bene, a parte c'ho il naso tipo rubinetto, per il resto... Tutto a posto. Da paiura. Da paiura, bene, anche qua tutto bene. Che dire, questi giorni un po' freddi a Milano ci hanno portato dei bei ricordi di inizio quarantena, quando qua battevamo i denti, non so se Davide si ricorda, qui in radio si battevano abbastanza i denti. Zona rossa per voi, ricordatevi di scriverci tantissimo insulti, ma anche cose belle, perché oggi la puntata tendenzialmente cerca di essere un po' più seria. Gulli ci odierà, ma ha chiesto esplicitamente di non essere chiamato, perché ha da fare. Ricordatevi di scriverci a radiozam_chat nella chat di Telegram, di ascoltare i podcast, di ascoltare la diretta, e non vi preoccupate se ci perdete, ricaricate la pagina, ricaricate tutto che torneremo. Quindi buttiamo avanti la sigla? Buttala, buttala. E andiamo con la sigla. Gioia l'ha detto che sta sigla è un po' lunghina, eh. È bella, è bellissima, però iniziamo perché qua bella è bella. Siamo caldi e calde, e quindi andiamo a presentare quello che è il primo ufficiale ospite proprio a inizio puntata così di Zona Rossa, senza neanche chiamare Cigo, che non ti preoccupare, ma dopo ti veniamo a cercare lo stesso. Vai Gigi. E niente, presentiamo un mio carissimo amico che vive a New York City, e gli facciamo qualche domanda rispetto all'ondata di proteste che ha travolto tutto il paese in seguito all'uccisione di George Floyd da parte di un gruppo di agenti della polizia. E niente, abbiamo chiesto a un po' di amici e compagni e compagne di aiutarci nel raccogliere un po' di domande interessanti da fare. Ce l'abbiamo qui sotto pronte e andrei a iniziare questa intervista. Beh, intanto iniziamo a salutare Andrea che ci sente, ci riceve. Ci senti Andrea? Andrea, mi sa che devi attivarti il microfono. Ecco, scusatemi, vi sento, ciao. Bene, noi ti sentiamo forte e chiaro e questa è una gran figata. Benvenuto. Benvenuto, grazie mille per aver risposto a questa chiamata. Secondo me è importante grazie anche portare un contributo reale, effettivo, di amici e compagni che sono lì, esattamente proprio lì. Quindi, infatti, la prima domanda la fa Gigi. a voi. Esatto, la prima domanda che ti volevamo fare è cosa fai lì a New York? Allora, io sono qua adesso ormai da 14 anni, una cosa del genere. Faccio filmmaker, documentarista, insomma, lavoro soprattutto in documentari, o come regista, ma anche come montatore, insomma, faccio diciamo tante cose, ma soprattutto documentari, diciamo. Bene, bene, infatti ho visto che mi hai mandato di recente un piccolo video che hai montato sul mutuo soccorso durante il periodo del Covid. Sì, esatto. Adesso sto montando proprio invece un altro pezzo simile, però proprio su Minneapolis, su alcuni dei giorni delle proteste e delle sommosse, insomma. Interessante, ti ricontatteremo allora. Molto, molto. Invece un'altra cosa che ti volevo chiedere è vero che, come spesso si dice, la New York rappresenta una realtà a parte rispetto al resto degli States? Sì, un pochino sì, certamente. Adesso appunto gli Stati Uniti sono anche un paese strano perché appunto è una confederazione di stati, in molti casi molto diversi tra di loro, e anche da città a città o da costa a costa, insomma, le cose cambiano. Di certo New York non rappresenta l'America per molte ragioni, anche sintomo chiaro. Anche dal punto di vista politico, ovviamente, per esempio, qua votano sempre democratici, democratiche, insomma, ma non è solo la politica, non è l'unica differenza, insomma. Però diciamo sì, non si potrebbero descrivere gli Stati Uniti, descrivendo solo New York, insomma, Abbiamo un po' capito, diverso. ho capito. E tu da che parti vivi? In che quartiere lì a New York? Io abito a Brooklyn, sul confine proprio con Queens, che sono insomma questi due quartieri famosi di New York. Il mio quartiere si chiama in particolare Bushwick ed è un quartiere in cui ci sono molti latinoamericani, ma che anche è stato molto gentrificato negli ultimi anni da gente come Eh sì. me. E invece la situazione come è evoluta nelle giornate lì a New York? Allora, oggi credo sia il 12° giorno di manifestazioni e proteste. All'inizio c'è stato un bel casino, ci sono stati scontri pesanti, saccheggi ad alcuni dei negozi a Manhattan e la reazione della polizia è stata subito molto dura e violenta anche da parte loro. E quindi hanno instaurato anche un coprifuoco a New York, non so da quante decine di anni, se non più, che non c'era stato un coprifuoco. Io non avevo mai vissuto in nessun posto che abbia avuto un coprifuoco, quindi alle 8 di sera non potevi uscire di casa e la gente continuava a protestare anche dopo le 8, creando ovviamente scuse per la polizia poi di arrestare i manifestanti anche pacifici. Quindi è iniziata con molta tensione. Adesso, negli ultimi giorni, la tensione si è un po' diffusa, gli scontri si sono ridotti, forse anche perché dopo tanti video che sono stati pubblicati di violenze della polizia senza provocazioni, credo che forse anche loro si sono resi conto che non era una buona operazione di marketing per loro farsi vedere bastonare la gente a caso, in ogni occasione. Quindi le proteste e le manifestazioni continuano, ma gli scontri adesso non ci sono più, diciamo, e hanno tolto il coprifuoco. Ok, ma un'altra cosa, mi ricollego qui a quello che hai appunto appena detto rispetto ai video della polizia, eccetera, eccetera. Quando la notizia, ma soprattutto mi riferisco alle immagini dell'omicidio di George Floyd, sono co cominciate ad apparire in giro per i media, eccetera, eccetera, tu ti aspettavi una risposta, una reazione giovanile dal basso così forte? Beh, diciamo, secondo me, allora, questo video ha avuto una potenza incredibile, credo, molto più di altri video che erano usciti in passato e ha mobilitato davvero una grossissima fetta della società civile, di certi giovani e gli attivisti, di certi neri, ma non solo. Credo in questo caso stiamo vedendo davvero tantissima gente che di solito non scende in piazza, sta scendendo in piazza. E credo che una delle ragioni sia proprio questo video, perché ne abbiamo visti tanti già prima, negli anni scorsi, di video in cui la polizia abusa il proprio potere, è violenta o addirittura uccide afroamericani. Ma in questo caso spesso però erano un po' fuori contesto, no? Si vedeva l'atto violento, l'atto dell'uccisione, ma ogni volta la gente poi diceva ma sai, magari prima sono stati provocati, oppure c'era tensione, erano spaventati, si sentivano aggrediti, e quindi insomma un po' giustificando poi la loro reazione, dice sono umani. Questo video sono 9 minuti in cui chiaramente non c'è nessuna provocazione, quest'uomo è a terra ammanettato, c'è 3 persone addosso e questi continuano, no? Tutti e 3, in particolare quello col ginocchio sul collo, non si sono mossi, continuavano a stare lì e non erano in pericolo, non è che erano in una situazione che dice ma insomma, no, cosa dovevamo fare? Insomma, questo video secondo me ha reso ancora più chiaro come non ci siano scuse, insomma il comportamento di questi poliziotti è stato un comportamento assassino e devono essere insomma resi responsabili e ci deve essere insomma qualche conseguenza del loro comportamento. E invece, secondo te, che differenza c'è con le rivolte che portarono alla nascita di Black Lives Matter? Allora, questa credo che sia un po' la continuazione di quel movimento. Infatti ancora gli organizzatori di Black Lives Matter ovviamente sono coinvolti in prima linea. E negli ultimi anni Black Lives Matter come movimento è cresciuto sempre di più. Come dicevo un po' prima, credo che adesso la risposta però, la protesta insomma si è allargata e non è soltanto Black Lives Matter e gli attivisti, quindi ormai appunto tantissima gente sta scendendo in piazza e la cosa credo che anche ovviamente sta cambiando è che la reazione della polizia a queste proteste contro la violenza della polizia è stata che hanno dispiegato ancora più forze e hanno sono dimostrati ancora più violenti in risposta a proteste contro la loro violenza. Stanno picchiando e arrestando anziani, giornalisti, i bianchi, no? Cioè, prima erano sempre i neri e i bianchi chiudevano un occhio, e mo un sacco di ragazzi bianchi vengono arrestati, ragazzi e non, e quindi insomma credo che davvero stia diventando una cosa più insomma molto più estesa di quanto lo era stato anni fa, dal 2013 in poi, quando Black Lives Matter era iniziato. Ma quindi secondo te potremmo dire che non si tratta più della solita rivolta razziale, ma... Più. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Pronti? Ecco, adesso sì. Ok. Ti dicevo... se è vero che quindi non possiamo più parlare della solita rivolta razziale, ma è una cosa più complessa, diciamo, cioè potremmo definirla come una rivolta giovanile o qualcosa di simile? Anche appunto credo che sia anche una rivolta giovanile, è anche una rivolta razziale, però sta diventando qualcosa di più grosso. L'altra cosa è che non solo si protesta il razzismo sistemico e il suprematismo bianco, ma è anche una protesta adesso specifica contro la militarizzazione della polizia. Il razzismo sistematico che permea la società americana è difficile da riformare, no? Puoi fare delle leggi antirazziste, ma il razzismo non scompare da un giorno all'altro. Mentre invece si può riformare il modo in cui vengono addestrati i poliziotti, il modo in cui vengono processati quando diventano violenti senza motivo, il modo in cui possono gestire situazioni di tensione o di protesta, ricevono la polizia, in quasi tutte le città riceve fondi governativi enormi, adesso non mi ricordo i numeri, ma in New York hanno un budget enorme, quindi c'è anche adesso un movimento che propone di spostare questi fondi, no, togliere dalla polizia, rindirizzarli verso le comunità più povere, le minoranze. Infatti adesso lo slogan è diventato defund, no, the police, togli i fondi alla polizia. Quindi insomma si sta allargando, credo, a una cosa proprio sia più universale ma anche più specifica, che credo può essere insomma cambiata un po' più facilmente che rispetto al sentimento razzista che permea la società americana. Quindi cioè, noi da qui ci siamo fatti magari un'idea un po' particolare, no? Quindi ti chiediamo, ma non ti sembra che si stia palesando nelle strade la nuova società americana? cioè che un po' sta presentando il conto alla vecchia, dove è sempre stato solo il bianco a comandare. Sì, un po' sì, direi speriamo. C'è, resta il problema solito che appunto la società americana è molto polarizzata, ci sono ancora enormi differenze proprio di valori tra gli stati del sud e quelli del nord. No, la guerra civile che c'è stata qua tra il nord e il sud era davvero, non è mai stata, no, il nord ha vinto, ma non è mai stata ricucita, diciamo, la ferita, la separazione tra nord e sud. E poi c'è anche una differenza enorme tra le zone urbane e le zone rurali. Le zone urbane tendono a essere molto più progressiste, mentre le zone rurali molto più conservatrici. Quindi spero anche adesso, a novembre ci saranno le elezioni, spero che le elezioni possano dare un segnale di come la società civile si voglia distanziare, diciamo, dagli estremismi di destra e il suprematismo bianco. Però allo stesso tempo Trump ha ancora il suo nocciolo duro di supporter che, insomma, ancora lo appoggiano, e devo dire non mi stupirebbe troppo se dovesse vincere ancora. Spero di no, ovviamente, però vedremo. Ma invece come credi che si svilupperà questo movimento? Ma le proteste credo continueranno finché i poliziotti coinvolti nell'assassinio di George Floyd verranno condannati. In passato molti di questi casi simili di violenza della polizia finivano poi senza condanne, o venivano un po', insomma, o condanne ridicole, minime. In questo caso non credo che possa succedere, se no davvero scoppierà il finimondo. Quindi queste proteste continueranno, ma poi il movimento continuerà, appunto, anche specificamente richiedendo riforma del sistema della polizia e altre, insomma, altri cambiamenti. Quest'estate, appunto, sarà campagna elettorale, quindi credo che continuerà ad esserci una grossa, insomma, spinta da parte del movimento per cercare di indirizzare un po' il dibattito, la conversazione politica verso queste riforme, questi cambiamenti della società. Ma invece noi qui abbiamo sentito un sacco di volte parlare di Guardia Nazionale, esercito, ma spiegaci un po' cosa significa, cos'è la Guardia Nazionale, come funziona lì. Allora, la Guardia Nazionale sono delle, praticamente è composta dalle riserve dell'esercito e dell'aviazione. I componenti di solito non sono soldati a tempo pieno, hanno un lavoro, no, fanno le loro cose, però sono pronti, addestrati a intervenire nel caso di emergenza sul suolo, di solito sul suolo americano. È abbastanza raro, spesso di solito vengono richiamati quando ci sono disastri naturali, no? È bisogno di gente che no, pulisca le strade dopo un uragano, allora chiamano la Guardia Nazionale. In questo caso Trump, no, e alcuni governatori di alcuni stati americani li hanno convocati invece per scendere in strada e rispondere alle manifestazioni, controllare le proteste, cosa che ovviamente insomma ha lanciato un messaggio molto forte e credo sbagliato, appunto di autoritarismo, insomma, perché vedere i carri armati per le strade, no, delle città fa impressione e sembra quasi che il governo sia in guerra contro, no, contro la gente normale. Quindi adesso le hanno ritirate da Washington e da qualche altro stato, quindi appunto un po', diciamo, l'emergenza di tensione sta un po' adesso diminuendo, però insomma per molti giorni ci sono stati soldati, carri armati e via dicendo per le vie delle città americane. Ma un'altra cosa che ovviamente un po' per affinità, un po' per ci ha molto colpito, comunque ci ha destato, diciamo, molta attenzione. Ma chi sono gli Antifa lì e cosa significa che sono stati dichiarati terroristi? Ma dunque, qua negli Stati Uniti Antifa è un movimento di attivisti antifascisti, formato in realtà da molti gruppi autonomi, non c'è una direzione, una gerarchia interna di partito, una struttura centralizzata, sono davvero dei nuclei di attivisti sparsi per il territorio, che combattono ovviamente le derive fasciste, suprematiste della società americana. Sono spesso coinvolte in insomma, manifestazioni, azioni di protesta, ma anche operazioni di mutuo soccorso. Hanno in certi casi sono stati anche accusati di non, diciamo, prendere distanze da comportamenti violenti. Il loro punto di vista è che non si fidano della polizia per difendersi, e quindi se devono difendersi dai suprematisti lo faranno con le loro mani. Detto ciò, appunto, Trump ha fatto sta dichiarazione dicendo che sono gruppi terroristi che organizzano, no, sono dietro a tutti gli episodi di violenza, ma per adesso c'è stata davvero pochissime prove che loro siano stati coinvolti davvero in un'organizzazione pianificata di violenza terrorista. Credo che Trump avesse bisogno di trovare un nemico, perché sennò, appunto, sennò è in guerra contro la popolazione, no? Contro i suoi elettori, o comunque quelli che lui dovrebbe rappresentare. E quindi, diciamo, no, dichiarando questi antifa terroristi, diciamo, ha un nemico da combattere. Però è chiaramente solo, insomma, una delle sue sparate per ottenere un po' di consensi, ma non ha nessuna, diciamo, nessun fondamento per adesso che sia stato provato nella realtà, insomma. E invece, rispetto ai sostenitori di Trump e nello specifico ai suprematisti bianchi, qui sono arrivate notizie che dicevano che loro in qualche modo stanno tentando di infiltrarsi nei cortei. Ti risulta? Cioè, è vero? Ma sì, ho letto qualcosina, adesso non so fino a che punto, però di certo ci sono state qualche occasione in cui nei cortei hanno fermato appunto gente esterna che sembrava affiliata con gruppi di estrema destra che hanno trovato con molti tipo armi o pietre, cose così. Qualche caso isolato, non so quanto è diffuso, ma di certo su Twitter anche hanno bloccato molti accounts che si spacciavano per account antifa invece e incitavano alla violenza, invece veniva fuori che erano estremisti di destra che facevano finta, diciamo, di essere antifa. Allucinante, ma veramente. E sì. Ti faccio quest'ultima domanda, in realtà è la penultima, perché l'ultima te la facciamo poi dopo i saluti. Esatto. E qual è in generale più o meno l'opinione che hanno i newyorkesi del presidente Trump? Ma guarda, ti do un dato. Nell'elezione del 2016 la Clinton, che comunque non è che sia tanto amata neanche lei, a Manhattan, che è dove Trump viveva prima di spostarsi a Casa Bianca, la Clinton ha ottenuto quasi 600.000 voti, Trump 65.000. Quindi, insomma, New York e Trump non vanno molto d'accordo, anche se lui, insomma, si spaccia come, insomma, anche se lui è un newyorkese, è nato in Queens proprio. Quindi, insomma, non ci piace qua Trump. Meno male. Meno male. Speriamo che si espanda questo odio per Trump, sì. Al resto del territorio, in modo tale che... Volevo aggiungere una cosa, se posso. Certo, voglio. No, una così, un consiglio da documentarista, magari l'avete già visto, lo conoscete bene, ma su Netflix c'è un documentario molto bello che si chiama in inglese 13th, tredicesimo, in italiano visto che si chiami tredicesimo emendamento, ed è di qualche anno fa, è stato candidato anche all'Oscar, ed è un documentario molto bello che racconta, insomma, è molto bello e anche angosciante, triste ovviamente, che insomma esamina molto, che racconta un po' insomma i problemi razziali in America, ma l'idea, diciamo, di base del documentario è che il tredicesimo emendamento della Costituzione era quello che abolì la schiavitù, e la maniera in cui viene proprio scritto questo emendamento dice che la schiavitù sarà abolita tranne in alcuni casi, praticamente nel caso dei criminali, e quindi tutta la teoria del documentario è che la schiavitù esiste ancora, ha semplicemente cambiato forma, ed è diventato praticamente insomma il numero di afroamericani e latinoamericani nelle prigioni è in maniera elevata, molto disproporzionato rispetto al numero della popolazione di queste minoranze. Insomma, in poche parole, il punto è che diciamo, il sistema giudiziario carcerario degli Stati Uniti ha sostituito il sistema schiavistico che c'era prima. Bel consiglio. No, sì, questo... che mi compare spesso tra le cose su Netflix e l'ho sempre skippato. A questo punto lo guarderò. Sì, invece volevo dire io, fare una considerazione al volo, perché con Andrea non, personalmente non ci siamo sentiti prima, rimango molto sorpreso del settore in cui lavora, perché è lo stesso a cui io ambisco di lavorare, che è il documentario. E volevo soffermarmi su una cosa che ha detto poco fa rispetto a una delle prime domande che gli abbiamo fatto, che la polizia e le forze dell'ordine americane hanno cambiato tono nel momento in cui iniziavano a uscire i primi video, ed è strettamente collegato con la domanda riguardo al fatto del perché proprio un video singolo che è girato così ha causato una cosa del genere. E c'è da sottolineare una particolarità di questo episodio, perché il video in questione era una diretta, quindi abbiamo per una delle prime volte nella storia delle dirette, anzi non è proprio, ormai non si contano sulle punte delle dita, sono un po', non sono tantissime, però accade qualcosa in diretta su dei dispositivi che normalmente, tra virgolette, sono stati creati per l'intrattenimento, una cosa positiva, sempre molto cool, molto vendibile. In questo caso la mercificazione della morte è un tema molto interessante nel documentario, che è stata trattata diverse volte, e mi fa piacere che si mantenga un po' quella sorta di potere che ha l'immagine quando viene ovviamente indirizzata verso a chi deve essere indirizzata, e non magari verso le persone un po' più a rischio, e venga usata come arma. Quindi tu mi hai confermato una cosa che è nata in Italia durante il G8, per esempio, quando le prime videocamere handycam a uso e consumo dell'individuo, non era più la televisione a sfornare immagini, ma eravamo anche noi a usare lo strumento immagine come arma contro di loro per difenderci. E questa è una cosa che a me personalmente, in tutta quella che è l'era digitale di consumismo agghiacciante in cui ci troviamo, fa comunque piacere che noi riusciamo a utilizzare questo tipo di arma per difenderci, o in questo caso nel mio in piccolo, nel tuo in grande, o nel regista di 13 ancora più grande, per mandare dei messaggi forti e chiari. Sì, credo che davvero le immagini e appunto insomma sì, il fatto anche che questi video che vengono registrati adesso, ormai tutti abbiamo, no? Abbiamo anche il telefonino che fa i video, quindi credo che questo stia cambiando davvero molto anche l'opinione pubblica su certe situazioni, perché appunto adesso abbiamo visto, al di là del video ovviamente dell'omicidio di Floyd, ma durante tutte queste proteste ogni giorno escono video in continuazione di, no, polizia che esercita violenza senza motivazione, e credo che tanta gente che magari era un po' più ma dai, insomma, magari non tutti sono, no, non tutti i poliziotti sono, no, così, insomma, ci si rende sempre più conto, grazie a questi video, che c'è bisogno di un radicale cambiamento nel modo in cui la polizia viene addestrata, viene mandata sulle strade, risponde a situazioni violente, di tensione, ecco, perché il punto è quello, no? Cioè, quando c'è tensione, come sapete, non ci vuole niente, poi basta solo una scintilla a far scattare un incendio. La polizia, no, dovrebbe, secondo me, cercare il più possibile di diffondere la tensione, no? Quando ci sono queste situazioni, e invece si presentano, no, bardati come se fossero in guerra e caricano a cazzo, scusa, si può dire a cazzo in radio? Sì, sì, la nostra, quella nostra è tutto. E caricano, insomma, i manifestanti pacifici. Fino a, no, a poche decine d'anni fa magari uno diceva ma chissà cosa hanno fatto questi manifestanti. Adesso insomma è chiaro che sempre più spesso non c'è questo aspetto, insomma. Grazie Andrea. Beh, grande, infatti, grazie mille. Grazie a voi. Prima di salutarci volevo farti un'ultima domanda, che, diciamo, questo programma radiofonico ha una consuetudine, cioè ogni persona che chiamiamo alla fine gli chiediamo di dirci una traccia da mettere, che è il prossimo pezzo che faremo ascoltare in radio, e quindi anche a te chiediamo di consigliarci una traccia. Qualsiasi, abbiamo una libreria sconfinata, quasi infinita. Vabbè, vado sul classico banale. Vai, sentiti libero, liberissimo. Sound of the Police, KRS-One. Che non poteva che, diciamo, chiudere questa meravigliosa intervista. Esatto. E niente, mentre Lorenzo va a recuperare il vinile della traccia, Io ti ringrazio per questa zoomata, per le cose grazie che ci hai, grazie a te, per tutte le robe che ci hai raccontato. Ti dico anche già che anche per il futuro, qualora ci fossero anche altre situazioni, anche inerenti al mondo del lavoro che svolgi così, potremmo magari risentirci, presentare magari alcuni volentieri, dei lavori che sì, fai. Sì. E niente, adesso abbiamo recuperato il vinile, così ce l'ascoltiamo tutti insieme. Ti ringraziamo di nuovo. Grazie e Andrea, ti salutiamo e a prestissimo. A presto, un abbraccio, saluti. Un abbraccio a te. Questo bene, è KRS One, uno dei pezzi più belli che ci sia, tutto per voi, Zona Rossa. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done, man. Attack. You can't stand where I stand. You can't walk where I walk. Wicked overseer, you hot shot, you wanna get pops and be a savior. First show a little respect, change your behavior, change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease, cause we be getting hyped to the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. There's a little truth. Open up your eye while you're checking out the boombox. Check the exercise. Take the word overseer like a sample. Repeat it very quickly and approve for example. Overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, officer. Yeah, officer from overseer. You need a little clarity? Check the similarity. The overseer rode around the plantation. Is on patrol in any nation. The overseer could stop you what you're doing. The officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you fought back, the overseer had the right to kill. The officer has the right to arrest. And if you fight back, they put a hole in your chest. They both ride horses. After 400 years, I've got no choices. The police, they have a nickel gun. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day. Could run the light and be upon their way. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Check out the message in a rough style. The real criminal on the COP. You check for undercover anyone. But just got me a black man, them won't check me. Them check out me, y'all, cause shine like the sun. But them jealous and them vexed, got a jailboard word. Black people still slaves up to today. But the black police officer, let's see it that way. He wanted salary, he wanted so he put on a badge and kill people for it. My grandfather had to deal with the cops. My great-grandfather dealt with the cops. My great-grandfather had to deal with the cops. And then my great-great-great-great, when it's gonna stop? That's the sound of the That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Entriamo a gamba tesa e iniziamo ad andare a prendere le persone interessate. Sì, esatto, faccio un mini inciso, cioè adesso è finito il momento serietà. Pronto? Allora, infamone, dov'è pezzo che sei? Della merda. Sono in montagna. Ma lo sappiamo, ti siamo venuti a prendere, zona rossa. Ora stai tre ore con noi, hai capito? Tre ore con noi, neanche avete salutato. Norberto è rimasto qua da solo, poverino, a lavorare. E voi? È vero. È vero, è vero. Mi piace studiare. Ascolta, Cigo, dai, siamo su zona rossa. Ora dimmi chi c'è intorno a te in questo momento. Solo Miriam e un gatto. Perché gli altri stanno facendo una camminata più lunga. Ah, il famoso gatto per cui Macio è dovuto scappare. Gattini. Per curarlo. Quanti sono? Esatto. Uno. Uno solo, ok, uno solo. Quindi dai. Però si chiama Gattini. Come si sta lì? Si sta bene? Ma si sta bene, c'è una vista fantastica. Ascolta, ma fa freddo perché qua si gela. Fa fresco. Diciamo che non fa caldissimo. Ah, ho capito. Vicino al fuoco, sì. Beh, certamente. Ascolta, senti. Perché c'è il fuoco. Infatti, noi abbiamo pensato che verteremo tutta la puntata su la percezione che si ha nel far bollire l'acqua con le piastre induzione. Raccontaci la tua percezione. Beh, io, dato che sono uno scansafatiche e non cucino mai a zamme, ed è l'unico posto che conosco con i forni a induzione. Quindi non sei utile a questa cosa. No, perché sono inutile in generale. E invece puoi chiedere alla persona che è di fianco. Miriam. Esatto. Qual è la sensazione che provi nel bollire l'acqua su un fornello a induzione? Aspettate, se volete la passo direttamente per la prima volta di Miriam in zona rossa. Siamo già rotti di parlare con te, scusa, grazie. Prego, ciao. Ciao. Ciao. Ciao Miriam. Miriam, benvenuta su Zona Rossa, perché per te è la prima volta, mi sa, Sì. Come va? Ti senti emozionata? Lo sappiamo, è normale, non ti preoccupare. Ma in questo momento, dopo questa bella passeggiata che ci ha fatto fare Mario sui monti, direi di sì. Ah, ma non stavate studiando? Aspetta, no, perché le storie cambiano da telefono a telefono. No, abbiamo studiato tutta la mattina, metà pomeriggio, siamo stati bravissimi e poi siamo andati a camminare. Ah, ok, perfetto. E quindi, sì, per rispondere alla domanda, dici... Ma credo che sia un po' la stessa cosa, nel senso, ovviamente quando si cucina a zamba è molto bello perché finalmente si mangia e di solito ci vogliono secoli, quindi è un'emozione più grande di casa. Certo, però nel senso... Non ti senti tipo onnipotente quando c'è la plastica induzione, che... Cioè tu metti una cosa lì e dopo pochi minuti c'è già un calore devastante, ma non c'è fuoco, non c'è fumo, non c'è niente, cioè proprio un prodigio della natura. Io mi sento... Anzi, oltretutto è anche da gestire, perché è una potenza che è molto superiore a te, quindi vabbè, non vogliamo influenzare le vostre risposte, nel senso, ognuno ha le percezioni che sente. Va noi bene. Abbiamo impostato una puntata che è già al 39esimo minuto su questa cosa. No, non è vero, in realtà abbiamo fatto un momento di serietà, ovviamente non ci avete sentito, è vero, perché stavate studiando. No. Però abbiamo fatto un bel collegamento con un amico di Gigi, Andrea, che salutiamo e ringraziamo, da New York. Grande fuma. Che ci ha raccontato un po' quello che è avvenuto in questi 12 giorni ormai di lotta. Questo è il 12esimo. Quindi andate a sentirvi il podcast, mi raccomando. E Dupe? Dupe ancora a camminare. Ma in generale si sta comportando bene? Sì, sta anche studiando. Ok, ma voi invece, cioè, sono dei giorni importanti o sbaglio? Più che altro per Dupe. Perché abbia la maturità, esatto, e finiamo il liceo. Raccontiamo alle persone che ci ascoltano da casa come sarà la maturità in questi momenti un po' particolari. Cosa farete? Sono state tolte le prove scritte, quindi non abbiamo più né il tema né la seconda prova, e al loro posto abbiamo un orale che dura un'ora, in cui, vabbè, io che faccio il classico, come prima cosa devo fare tipo un elaborato parlando di greco e di latino. Poi ci verrà sottoposto tipo un test di italiano da analizzare, dopo quello ci viene dato un materiale e su quello dobbiamo costruire il discorso per tutte le altre materie. E quando è che è? Dal 17, non sappiamo ancora i giorni. Non sapete i giorni, li dividono in base ai cognomi, tipo qualcosa del genere? Sì, si estraggono, fanno cose. E in questo momento c'è un momento di emozione più unica che rara, perché è entrato Vlad Scolari è entrato in radio, in questo, fisicamente, sempre con le dovute precauzioni e distanze. Dopo verranno tirati in mezzo in una diretta radiofonica mentre fanno le prove, gli tiro un cavo e un microfono e vediamo cosa ci raccontano. Che dire, ragazzi, grazie, godetevi la vacanza, fanculo. Grazie a voi. Salutateci i camminanti. Più o meno quando è che tornate? Va bene, scusate, va bene. Giusto per capire. Torniamo domani pomeriggio. Bene, verrete schiavizzati per i prossimi giorni fino alla fine della settimana. Benissimo. E mi ripassi Cigo? Certo. Ciao Miriam. Ciao Miriam. Pronto? Credevi di scappare, credevi che avessimo finito con te. No. C'è ancora una mezz'oretta. Hai insultato troppo poco. Una mezz'oretta Cigo. Buona, Cigo. Mi raccomando, comunica dove devono scriverci le persone e come fanno ad ascoltarci. Vai. Beh, allora, come fanno ad ascoltarci? In tutti i nostri canali social, Radio ZM, trovate tutti i link utili. In più, sito internet di ZAM. Recito. In più, www.zam. No, ZAM Autonomo Milano. Cazzo, non me lo ricordo. Dobbiamo mettere quella loop station con i suoni, Gigi. Sì, io voglio un rumore di allarme. Installare le bombette. Sì. No, il sito è www.zam-milano.it. Dai, Cigo, dai. Più facile di così, pure brutto, fa schifo. Esatto. Brutto, schifoso per fare in modo che fosse sembra facile. Sembra un sito del comune. Cazzo, e non ce lo ricordiamo. Dai. Cazzo figo. No, Cigo, spremiti le meningi e dici chi chiamare perché abbiamo... Stasera cosa mangiate lì in baita? Esatto. Parti? Non lo so, perché abbiamo mangiato ieri a cena e oggi a pranzo la polenta. Polenta con cosa? Ieri brasato di formaggio. Ella. E oggi salumi vari. A proposito, sì. Lo sapete che se voi domani tornate a mani vuote da rifugio, finisce malissimo. Piatti calci in culo. Sì, quantomeno, sicuramente tu e Dupe. Beh, tu hai paura, ascolta. Domani sei qua. Quindi domani ce lo ripeti face to face. Già che ci sei. E non fai non ridere. Sei già morto e non no, lo sai. No. Ho paura. No, non averla, dai, sai che ti vogliamo bene. Siamo poi okay, siamo dei non violenti noi, soprattutto io. Pica è un po' violento. Confermo. Pica un po' violento, però no, io no. E vero, portateci confermo. Qualche delizia della montagna. Portiamo qualche delizia della montagna, va bene. Sì, dite a Macio, i compagni hanno chiesto formaggio e salumi. Va bene. Lo diremo a Macio. Sì, ma questo non vuol dire di responsabilizzarvi rispetto a questa cosa, però. Ma a proposito di... se non ne ha da darci. Vabbè, da lì a qui qualcosa troverete. Cioè. A proposito di quell'altro individuo, è nei paraggi? Sì. No, perché abbiamo appena detto, sono ancora a camminare. Su loro sono ancora... Ok, giustamente. Sì. Niente, volevo una intervista a freddo su Midnight Max, però evidentemente Se volete, un'altra volta. Visto che stiamo ricordando anche i contatti, vi scrivo su Radio Zam Chat su Telegram. Sì. E vi avviso quando arriva il rifugio, in modo tale che lo potete chiamare. Ottimo, ma invece ottimo. Chiedi a Miriam se ci può consigliare una canzone. Esatto. Miriam, ve la passo. Grazie, sei gentilissimo. Sì. Ciao Miriam, ti volevo chiedere una cosa, ci potresti consigliare una canzone da ascoltare? Qui in radio che la mettiamo in onda così. Adesso, sui tuoi piedi? Sì, subito d'amble così, freschissimi. Ok, i ribelli della montagna, che l'abbiamo appena sentita anche noi. Dai. Ciao. Ciao Miriam. Ciao. Intanto è arrivata Chiara. Ciao compagni. Ciao Cigo, mi raccomando. Faminga barla fuse. Mi raccomando, cibo. Un sacco di cibo. Sì, va bene. L'ha detto. Grazie, ciao. Ciao. Niente, questa cosa bellissima che sta accadendo, appunto, c'è stata questa proposta del dopo lavoro di fare un momento di ritrovo per le prove distanziati perché il tempo è malandrino, quindi ieri io e Giacomino ci siamo muniti di tutte cose, abbiamo dato una pulita all'aula teatro che ve lo giuro raga... Complimenti perché era una merda. Era una merda. Non aveva piovuto 8 volte, c'è state 9 inondazioni. Il bagno dentro, la quantità di cose che abbiamo trovato, intanto si aprono siti strani perché Guglielmo evidentemente tutti i videogiochi che scarica da questa radio. È strano perché non sono arrivati ancora insulti, ma invece è arrivato un bellissimo momento di rubrica che nessuno stava aspettando, che però vi facciamo sentire dopo questa bellissima canzone che devo recuperare il vinile. Arrivo. Sì, no, perché noi abbiamo sempre questa cosa dello sbatti che abbiamo. La radio è bellissima, però la stanza dei vinili non è dentro la radio, quindi ogni volta bisogna farsi lo sbatti di uscire, prendere la scala, il coso, il muletto, insomma tutte le robe. Eccomi. Poi, ecco, Pica è tornato. Trovato il vinile, la pulita, ci siamo. Quindi, i ribelli della montagna, grazie Miriam, grazie Cigo, torneremo, non vi preoccupate, e a fra pochissimo. Sono piccolo, perché odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, Athos. Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Sempre bella, eh? Bentornati e bentornati a Radio ZM 1901 Zona Rossa con una bellissima sorpresa. In compagnia di Gigi e Pica, Vlad Scolari. Tutto per voi. Tutto per voi. A Gigi bella. E Pica, già giusto, giusto. Bentornati e bentornati, certo. A Radio ZM. Come state, ragazzi? Ma dai, bene, bene, però vogliamo sapere di voi come state. Un sacco che strano vedervi. Ma in realtà Gigi, voi siete già Pica, comparsi qua circa un annetto fa, Scolari. Con una bellissima tutto presentazione per voi. Del dopolavoro tutto stadera per voi. E già giusto, giusto. Bentornati e bentornati, certo. A Radio ZM. C'ho un ritorno state, in cuffia. Ma dai, bene, bene, però vogliamo sapere di voi come state. Un sacco che strano vedervi. C'era lo scherzone. C'era uno scherzo. C'era uno scherzone perché abbiamo inavvertitamente fatto partire la radio da un telefono, perché stavamo mandando a tutte le chat il fatto che Vlad Scolari è a Zona Rossa. Pensavo di essere diventato pazzo completamente. Ogni tanto sono diventato pazzo perché ci sono qua io. Ogni io tanto sono capita, pazzo di te che è diverso. Lo so, lo so. È diverso. Lo so. Ogni tanto in capita. Un'altra vita, in un'altra vita. In sta radio quando parte qualcosa a caso non si capisce, si pensa di essere pazzi, però un po' lo siamo. Vlad, hai con te una giovane fanciulla che io non ho mai visto, forse già. Sarebbe il caso di presentarla, perché il dopolavoro cresce di persone, cose, yes. Numeri. Beh sì, le porte sono sempre aperte, quindi sempre gente che se ne va e gente che viene, gente che ritorna, gente che non torna più, gente che siamo felici che non torna più, gente che aspettiamo che torni, e... che aspettiamo che Zona Rossa, signori, aspettiamo che se ne va. Però diciamo che no, e quindi sì, sono qui con Diana. E saluta Diana. Ciao. Bene, molto loquace. E Diana viene da un laboratorio del dopolavoro Stadera che quest'anno è partito al centro internazionale di quartiere a Cascina Casottello in zona Corvetto, e che conducevo io insieme a Tommaso Russi e a Luigi e a Vittoria sul tema delle migrazioni e dei migratori. E Diana ha partecipato quasi fin dall'inizio, mi sembra, e abbiamo iniziato un percorso che è stato bruscamente interrotto dai poteri forti, i virus maledetti, esatto, schifo. E quindi ci siamo interrotti ed è difficile in un gruppo che si è in fondo formalizzato in novembre riuscire ad andare avanti, perché non c'è ancora quell'affetto, quel sentirsi parte di un gruppo. E quindi abbiamo iniziato molto in ritardo a fare delle cose online con loro, però alla fine erano sopravvissuti in due o tre. E Diana è stata la prima che ha detto: no, io in questa forma fredda e di web non me la sento di partecipare. E quindi si è scusa. Poi quando siamo partiti con questo mega super progettone della Brigata Brighella, perché sei proprio un Brighella, adesso poi ne parliamo. Io sono, esatto, un Brighella, sì. E ha subito suonato al nostro campanello che non abbiamo e che deve, ed è venuta a partecipare di nuovo. E oggi siamo infatti qui perché quando piove abbiamo bisogno di un tetto, e quindi torniamo a Zamma a provare, o all'Ovile. Siamo andati anche in Baronata a provare, grandi, dopo aver fatto l'incursione in Barona, e siamo venuti qui a provare la fiaba che racconta, che sta riscrivendo Diana, e che lei, quando abbiamo detto che ti mandiamo al macello col pubblico? Il 20? Il venerdì 20 giugno. In che corte si può sapere? Sabato 20 giugno. Sabato in che palazzo? Dove saremo, Diana? A Quarto Giaro. Bello. Sì. Noi... Non sei molto preparato. No. Chiara affonda con una lama molto sottile nella pancia di Vlad. In questo momento Vlad, sì, sta sgozzando. Sai male. Cos'è? È che prima, quando facevo tutto da solo, ero molto più preparato. Da quando mi hai fatto l'associazione. Quando che c'era tu... lui. Quando c'ero io anche. Esatto. Invece, col fatto che c'è l'associazione, che tutti fanno qualche cosina, delle cose mi permetto di dimenticare. Tanto gestione di merda. Ma è bellissimo. E quindi chiedo. Ma invece, dai, Vlad, bando alle ciance, parlaci di questa Brigata Brighella, perché alla fine tantissime volte anche in passato ce l'hanno detti: dobbiamo fare gli spettacoli nei cortili, e non li abbiamo fatti, dobbiamo fare per quell'occasione. No, non è vero, voi li avevate già fatti altre cose, perché voi siete bravi, noi siamo dei ciarlatani, e ritiro per metà quello che ho detto. Però raccontaci un po' questo progetto della Brigata Brighella, un po' come è nato, come funziona. Allora, se voi siete dei ciarlatani... Oh, un microfono d'attore mi hai dato, bravo. Ma che qui, bello, con l'antiurto. Questo, cioè, è bellissimo. Quando, questo bisogna urlare per parlare. Quando lavoravo in radio, il tipo mi diceva: devi fare l'amore col microfono. Esatto, calma però. Non adesso che c'è il Covid, non si può. Non vi do questo piacere, non vi do questo piacere. Ok, ok. Aspetta che faccio quello che... Comunque, se voi siete dei ciarlatani, noi siamo i re dei ciarlatani, perché commedianti, teatranti, questo sono. Facci bene l'amore, però più vicino. Grazie. Ma poi troppo vicino si emoziona. Dici, racconta. Allora, cosa dirvi? La Brigata Brighella, è vero, teatro nei cortili, proposta che c'era da tanto, andiamo nei quartieri periferici, che tentiamo soprattutto di portare a teatro la gente che di solito non ci va, o perché non ha i soldi per poterselo permetterlo, o perché non è nella cultura sua, familiare o di provenienza, di andare a teatro. Bisogna anche che qualcuno ti ci porti la prima volta, e se no da solo come fai? E pensi tendenzialmente che sia una roba noiosa, il che per il 60% delle volte è così. E, diciamolo chiaramente. E invece può essere anche qualcosa di bello e di popolare anche. Non è un'arte elitaria come spesso si può credere. E quindi invece, dopo 2 mesi e mezzo di attività culturale online, io non so come... Vabbè, no, non lo dico, però siete stati veramente, veramente forti. Sì, botta. Sì, bellissimo. 2 mesi e mezzo, poi basta. Cioè... No, proprio per il fatto di essere, appunto, cioè, che palle. Ma non c'avevamo una mazza da fare a casa. No, sì, certo, però dai. Vabbè, tu vuoi elevare lavorone, quello che abbiamo fatto, ma in realtà, Renato, che cosa facciamo? Io mi rompo le balle tutto il giorno, creiamo, facciamo qualcosa. Però i ragazzi, no, ragazzi sono, hanno imparato a montare i video da soli. Sì, è vero. Hanno imparato a fare anche un minimo di color correction e correzioni. Poi avete quel genio di... com'è che si chiama il ragazzo che ha fatto anche la grafica della Brighella? Nicola Sturba. Quanto è bravo, madonna. Io non aspettavo altro di incontrarti, di parlare della Brigata Brighella, per parlare di quanto è bello, quanto sono belli i disegni che ha fatto. Insomma, da quando non c'è più Pica avete fatto il salto di qualità. Esatto. Sì, di tutto, esatto, da, esatto. Ma lui è l'eminenza che non c'è, capito? È comunque... grande direttore. Sì, sì, perché comunque c'è, ogni tanto appare con un messaggio. Ah, Lorenzo, capito? Mi dai i complimenti perché ero rimasto molto sorpreso. È stata una bellissima campagna, a parte gli scherzi, molto bella, che ci ha dato modo di usare un mezzo che non avevamo mai usato, che era il web e il video, ovviamente concentrandoci sempre sul teatro e sul tentare sempre di fare comunità nell'incontro dal vivo e non disprezzando to cure, che paroloni. La zona rossa cresce, il dizionario di zona rossa cresce. La virtualità, ma ci ha dato modo di sperimentare questo mezzo e che in un modo magari diverso comunque non abbandoneremo adesso, certamente. Però sì, abbiamo pubblicato 150 video in 2 mesi. Sì. Che Netflix spostati proprio. Esatto. Sì. Diciamo la verità, dopo anni e anni a dire la comunità, creiamo una cosa, praticamente adesso avete scoperto quanto è bello stare da soli in cameretta propria e non avete intenzione di... giusto, mi sembra in giusto. Realtà no, mi sembra giusto, che, cioè proprio il cioè, no, il contrario, cioè quei 2 mesi e mezzo e poi abbiamo detto basta, cioè troviamo un modo intelligente per tornare anche col distanziamento, con tutto quanto, con le mascherine, con i gel, con i guanti, a tornare in un rapporto dal vivo. Perché cioè, tramite video si possono fare tante cose, però in fin dei conti poi infine non è teatro in un certo senso, e quell'incontro dal vivo ci mancava tantissimo, tra di noi prima di tutto. Ci abbiamo fatto un primo direttivo di associazione dal vivo l'altro giorno, da gennaio praticamente, ed è un'altra cosa vedersi, parlarsi, litigarsi, ammazzarsi, abbracciarsi. È proprio distanziati sempre ovviamente, però è già qualche cosa. E poi le prove, cioè provare a distanza è stato complicatissimo e difficile. Invece con questa idea di Brigata Brighella che stiamo mandando avanti, lavoriamo in pratica attore e regista insieme, quindi si lavora in due, si può lavorare distanziati, perché l'attore è da solo nel momento della sua narrazione, perché con Brigata Brighella raccontiamo le fiabe. E voi mi chiederete, e dov'è la parte sociale, politica del dopolavoro stasera che sta legata a Brighella? No, non lo chiedete perché avete già capito. Ma voi siete persone intelligenti, non a caso siamo nati qua. È nell'operazione in sé, quindi durante le distribuzioni alimentari dare anche una distribuzione di fiabe, di bellezza per i bambini ma anche per gli adulti. Beh, grandi comunque. E questa, bello. Risposta come ti sembra per adesso? Quante ne avete fatte finora? Allora, per ora ne abbiamo fatte 4. Qua 3? Solo 3? No, chiede 4. Che amica la sua 4 ne abbiamo fatte. Dicono 4 dalla regia. 4 ora. Ne abbiamo fatte. Abbiamo iniziato a lavorare. Allora, la risposta è stata prima di tutto ottima all'inizio dalle brigate, che l'hanno accolta immediatamente. E tra l'altro un'idea che più o meno di cui abbiamo parlato la prima volta proprio il 25 aprile, quindi insomma siamo anche contenti che quella sia la data. Dovevamo andare in scena col lavoro di resistenza tra l'altro in quei giorni, e quella è stata la prima cosa bella delle brigate. Emergency anche, ovviamente ho detto venite pure a provare qua, non c'è nessun problema. E poi c'è stato questo incontro con noi dovendo andare a fare i contastorie poi in fondo, quindi i giullari in mezzo alle piazze, è stato l'incontro con Paolo Rossi, che ha sentito parlare del progetto, gli è piaciuto il nome, e il signore dei giullari è venuto a provare con noi per una settimana. Per cui c'è chi anche come Diana o Reda, che è un altro ragazzo che si è accodato a noi adesso, ha fatto le sue prime lezioni di teatro della sua vita con un signor attore come lui. Beh, bellissimo, cazzo. Sì, sì. E lui ha detto, Paolo Rossi ha detto, voi fate un regalo alla comunità, io faccio un regalo a voi. Grande. Sì. mi sto commuovendo. Sono invece molto sensibile in questi giorni. La mia domanda era riferita a livello di persone lì, proprio nel momento in cui accade questa cosa. Sì, allora è strano, nel senso che lo stiamo scoprendo. Il pubblico è sempre imprevedibile, anche a teatro. Per quanto tu puoi farti le tue idee, dire vado in quella città, in quel quartiere, in quel posto, comunque il pubblico è imprevedibile, non puoi sapere totalmente cosa l'uomo fa in gregge, poi essenzialmente. Ma la risposta è stata molto buona, con le dovute reticenze, perché noi andiamo a casa loro, cioè andiamo nel cortile di casa loro. Era per quello la domanda, più che altro. Allora, per 4 date sono poche per poterti dare una risposta vera. Per adesso posso dirti che più il quartiere, abbiamo avuto 2 quartieri, 3 quartieri abbastanza periferici e uno più centrale. Più è popolare il quartiere, più tendenzialmente è accolta meglio la situazione. Più sono radicate le brigate volontarie per l'emergenza nel quartiere, più è stato accolto. In Barona siamo stati accolti come se fosse, cioè, la gente ci aspettava, si erano portati le sedie giù da casa in cortile e ci aspettavano, i bambini ci aspettavano. Mitici i bimbi di io vada. Sì. E poi no, dicevo che anche i grandi, ho visto che c'era un pubblico variegatissimo comunque, non erano solo piccini. Variegato di età, variegato di etnia, variegato di in ogni senso. Cioè, c'erano le sciurette con la sedia. C'è la sciura di Barona che si è affacciata e c'era il bambino sudamericano, la signora romena che però si è messa un po' in disparte, e assolutamente variegato. La risposta è stata molto buona. E già dalla prima, cioè anche quando tornate, che eravamo in zona Porta Genova, sempre in case popolari Aller, quindi è stato così. La risposta a me sembra positivissima. No, posso fare il momento pesantoneria? Vai! Per la gioia di Guglielmo. No, cioè Guglielmo ogni volta che sente un parziale inspessimento della conversazione sta ai piedi e si strugge. Comunque, no, quello che volevo dire io è che al netto di tutto le fiabe sono politiche, parecchio politiche, anzi, in realtà spesso e volentieri sono state abbastanza, come dire, una attestazione anche simbolica di uno status quo, di una cosa, penso alla formica e la cicala, ma in realtà mille miliardi di altre cose. Rodari ci ha fatto un sacco di lavori su queste cose qui. Cioè, anche la fiaba di per sé ha un bel portato grosso, poi uno ovviamente dipende che fiabe sceglie. Assolutamente sì. Allora facciamo un po' di lezione. La prima distinzione è tra favola e fiaba, che bravo, mi fissavo per chiederti. Esatto, vero? Lo so. La favola tratta di animali, sono animali parlanti tendenzialmente, la fiaba invece parla tendenzialmente di esseri umani. Poi capito? Pensavo ci fosse qualcosa di tipo scritta così, scritta con i dittonghi, no. No, perché la fiaba è orale. Bravissimo. La fiaba viene dalla tradizione orale. È totalmente popolare, è il genere più popolare di tutti, forse insieme al canto anche, no? È il genere più popolare e di tradizione orale. Noi ci basiamo, prendiamo spunto dalle fiabe italiane raccolte da Italo Calvino, che fece questo lavoro immenso, perché prese da tutta Italia, da ogni regione, almeno 4-5 fiabe, sono 200 fiabe in tutto quelle che lui ha raccolto, le ha tradotte in italiano dai dialetti, perché l'italiano non esisteva, cioè, quindi non c'erano fiabe in italiano, le ha tradotte in italiano e le ha raccolte. Noi prendiamo spunto da lì, scegliamo insieme all'attore una fiaba o a caso, perché tanto poi sono tutte belle, ma a noi servono come studio di spunto. Ragioniamo, rubiamo un po' la trama, quello che succede, le vicende. Diciamo che comunque Calvino già di per sé è abbastanza una garanzia che vanno più o meno bene, mettiamolo così. È sicuramente la garanzia che lui abbia fatto un lavoro di traduzione immenso, però non sono sue. No, chiaro, dico nella selezione. Ma assolutamente sì, ha fatto un lavoro immenso. E il fatto che non sono sue ci agevola nel fatto di crearne di nuove, perché è quello che noi facciamo. Cioè, insieme all'attore si scrive una fiaba nuova. ambientata nei giorni nostri o poco prima o anche nel futuro, perché no, ma insomma che faccia riferimento al mondo che conosciamo, anche perché quello che poi dà significato alla fiaba, che è la morale in fondo che arriva alla fine, è la morale di una fiaba del 600, del 700 e dell'800. Già qua c'è, cioè, molte di voi signore femministe li girerebbero un po', non posso dire, le ovaie, giusto, capito, perché ci sono ovviamente, è un mondo totalmente maschilista, patriarcale, ci sono anche molto truculente alcune, non che la realtà che viviamo noi non sia truculenta, però in modo totalmente diverso, e quindi cerchiamo di portare un mondo, no, ad esempio la fiaba di partenza di Diana che è qui con noi, qual era il titolo originale? La madre schiava era il titolo, bravissima, e ragionando con lei abbiamo preso un po' la trama, abbiamo ragionato su quello che accadeva dentro, e lei portando la sua esperienza, perché Diana è bulgara, è qui da quando era piccola, ma viene dalla Bulgaria, e allora abbiamo deciso di scrivere una fiaba ambientata anche nel suo paese di origine, e parlando poi in fondo un po' del passaggio dalla dittatura a quel mondo, la dittatura filosovietica, e al passaggio al non poter esprimere la propria opinione, quindi abbiamo impostato su quello, e ognuno porta il suo carico personale nella fiaba. Bello, ma quindi voi fate principalmente fiabe o favole? Non ho capito. Fiabe. Yes. Fiabe. E ad esempio anche Reda, che invece è un ragazzo che lui faceva le brigate volontarie per l'emergenza con lo sconosciuto, il grande attore sconosciuto Luigi Vittoria. Grandissimo Gigi, che salutiamo. E col Gigione faceva le brigate con lui. Noi eravamo i primi giorni che si è potuto uscire. Sono andato un po', sono fatto portare Luigi, dovevamo andare a parlare con le brigate appunto per questo progetto. Ne parlavamo, questo ragazzo era qui che ha 20 anni, credo, Reda, di origini marocchino. E che bello, posso partecipare? Ho detto vieni, perfetto. E quindi lui è quello che ha fatto la prima lezione di teatro della sua vita con Paolo Rossi in sede Emergency, e con lui invece abbiamo riscritto una fiaba romana famosissima, che è Berta e Nerone, da cui viene la famosa canzone Berta filava di Rino Gaetano, e abbiamo riscritto questa fiaba e si chiama E Miriam filava. Quindi ambientandola né in Lombardia né a Roma ovviamente, ma neanche in Marocco, ma in Lombardocco, che è un famoso paese dove ci sono Milano, Brescia, Marrakesh e Casablanca. Sì, ci volevo andare, ma poi non ci sono andato. Lo so. C'era il lockdown, esatto. E quindi si gioca anche con questo, si gioca anche sulla satira, e su questo. Poi è chiaro che la cifra del dopolavoro, che vogliamo o no, è comunque quella. Però la poniamo più su un'ottica anche di riderci sopra o di sognarci sopra, e anche di indignarci magari all'interno. Però poi il lieto fine in qualche modo deve arrivare, anche se la storia finisce male, un messaggio minimo di speranza nella fiaba ci deve essere per poter andare avanti. Mi sembra giusto che ci sia questo barlume di speranza. Sì, se no sono... Soprattutto se ci sono i bimbi, che cioè, già il mondo fa abbastanza schifo quello che gli stiamo lasciando. E poi l'interattivo. E il fatto che l'attore poi non sa cosa succede, perché lì sei in mezzo al pubblico, la gente ti risponde. I bambini più che mai... La gente anche, per cui devi essere pronto a ricevere quella cosa e a cambiare anche in corsa determinate cose, per cui è una palestra d'attore. Beh, bellissimo, credo. Pazzesca, sia per chi ha già esperienza, sia per chi inizia, sia per chi si sta formando, è pazzesco, perché devi essere pronto. Noi vi lasciamo le vostre prove, perché io le ho prelevati praticamente dall'aula teatro, però rinnovo l'invito a che ora finite le prove? Non lo so, ci avete interrotto. Infatti, quindi... Dai, picchio, sei proprio molesto. Vabbè, dai, no, perché volevo sentire anche le campane degli altri al volo, però adesso abbiamo un altro appuntamento telefonico, perché Zona Rossa è proprio... Capito? Si ferma un attimo. Devi scegliere una canzone, Vlad. Devo scegliere una canzone. Sì, qualsiasi essa sia, io vado nella stanza dei vinili, urlamela. Allora, nella stanza dei vinili... Vabbè, dai, ragazzi, andiamo un po' sul classicone del dopolavoro Stadera e vi lasciamo con una bella Porta Romana bella cantata da Nanni Svampa. Olè, un classicone by dopolavoro Stadera. Dovremmo che... avere il vinile, esatto. Tra l'altro, quindi... Adesso vado a cercarlo, intanto Vlad, magari mentre lo cerco fai dei saluti. Allora, saluto la mamma, ciao mamma, anche il papà. No, saluto tutti i ragazzi del dopolavoro Stadera, della Brigata Brighella, delle Brigate Volontarie per l'Emergenza. E scriveteci, ci trovate ovunque su ogni social possibile e immaginabile, se volete seguirci, sapere di noi, ma soprattutto contattateci, incontriamoci se volete raccontare anche voi delle fiabe in questo momento o partecipare in qualche modo a quello che è il dopolavoro. Grandi, ma un'ultimissima domanda, ma il 20 giugno sotto la regione Lombardia ci sarà anche la Brigata Brighella insieme alle altre brigate? Allora, questo non lo so perché è notizia di oggi, quindi dobbiamo ancora discuterne e voi ben sapete che bisogna fare le assemblee, i direttivi, capito? Certo, certo. Esatto. Orizzontalità sempre. Era molto meglio quando c'ero io, solo io. No, scherzo. Quindi dobbiamo un attimo parlare. So che noi il 20 abbiamo un'incursione appunto a Quarto Giaro con le fiabe, quindi probabilmente alcuni di noi saranno lì e altri saranno a continuare a fare quello che si deve fare. Grandi, senza mollare un colpo. Credo, sì. Ho trovato il vinile, Vlad, che dire, grazie mille, scusa il disturbo, potete tornare alla vostra lezione nell'aula che io e Giacomino abbiamo pulito ieri. Grazie Lorenzo, grazie, come faremo senza di te? E Nanni Svamp è arrivato, ciao Nanni, mettiamo sul vinile e ci sentiamo fra pochissimo. Baci! Facciamo arrivare Nanni per suonare il suo vinile. Sì, perché lo deve sentire come, esatto. Dire, come gira bene. Porta Romana bella, Porta Romana, ci stanno le ragazzine che te la danno, ci stanno le ragazzine che te la danno, prima la buonasera e poi la mano, e gettami giù la giacca ed il coltello. Voglio vendicare il mio fratello, ma via San Vittore le tuta sassi, l'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi, via Filangieri che è una campana, ogni volta che la suona le nacundana. Via Filangieri è un gran serraglio, la bestia più feroce è il commissario. Prima faceva il ladro e poi la spia, e adesso è delegato. Gulli ha mandato un messaggio dicendo: dai, ma ditegli che non è un attore, è solo un pagliaccio. 7-7 fa 9-1. Arriva la volante, non c'è nessuno, ha fatto più battaglie la tua sottana che tutta la marina americana, ha perso più battaglie il tuo reggimento che il general Cadorna a Caporetto. Ha fatto più battaglie le tue mutandine. Meglio pagliaccio che Gulli. E tutti i giapponesi alle Filippine. Una che rischiari le quattro mura. Rischiara la mia cella che è tanto scura. Rischiara la mia cella che è tetra e nera. La gioventù più bella morì in galera, o luna, luna, luna che fai la spia, bacia la donna d'altri ma non la mia, amore, amore, amore, amore un corno, un giorno mangio e bevo, di notte dormo. Olimpia, Olimpia te me tradisce e dice che te vegne e te pete pisse. Ci sono tre parole in fondo al cuore, la gioventù, la mamma ed il primo amore. La gioventù la passa, la mamma muore e resta come un birra col primo amore. Tanto c'è Vlad che canta. Porta Rumana bella, porta Rumana, dalle ragazzine che te la danno. Anche meme ci dà dentro. Ci stalle ragazzine che te la danno, prima la buonasera e poi la mano. E con un tempismo perfetto è entrato pure Hank in radio. Ciao Hank. 19:30 zona rossa, e con un tempismo perfetto andiamo a chiamare Andrea per sentire cosa ne pensa della polizia. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria. Questa cosa non era prevista. Esatto, ci vuole la loop station con i suonini. Niente, andiamo avanti. Intanto proviamo a chiamare qualcun altro, qualcuno che ci viene in mente così al volo. 1, 2, 3. Grazie mille, Hank. Niente, dai, riproviamo l'ultimissima volta e poi facciamo aspettare. Aspettiamo 5 minuti e magari lo richiamiamo più tardi. Sappiamo che non ha tantissimo tempo. Stiamo trasferendo la. E non è neanche niente. Troppo campo, mi sa. Esatto, dove si trova. Esatto. E niente, ce la palleggiamo un po' tra di noi con Hank. È andata così, doveva andare così. Intanto proviamo. Cioè, già troppa serietà. Proviamo a fare. Programma. Esatto. Facciamo altre telefonate. Io direi che possiamo andare a chiamare una compagna. Una a caso, ditemi un nome qualsiasi e io chiamerò. Chiamiamo Gioia. Chiamiamo Gioia. Che l'altra volta voleva fare disfare, adesso dov'è? Dov'è Gioia? Adesso sarà sicuramente un'assemblea mega sbatti. O sarà appena uscita dalla doccia come l'altra volta. E staremo disturbando. È Costanza che ancora non si fa vedere a zona rossa. Adesso vediamo, ricordiamole di un appuntamento. Adesso c'è una figura di merda perché sicuramente qualche roba sbatti, la stiamo pressando e si incazza. Meglio. Adesso vedrò meglio, si incazza. È giusto così, a zona rossa. Però effettivamente adesso stiamo chiamando col mio telefono, quindi è ancora peggio di andare di notte. Il vivo sa, non ti risponderà mai. Non mi risponderà mai. Vede Lorenzo e pensa radio, pensa zona rossa, no, niente. Bene, bravi. Bravissimi. Niente, Norberto sarebbe bellissimo ma chiamarlo adesso. Ma chiamiamo quel buon tempone di Cesa. Ah, giusto, e facciamo gli auguri a Cesa, così ci dice al telefono quella che era la sua, il suo bellissimo contributo, che è la rubrica che nessuno stava aspettando. E soprattutto ci dice il menù di stasera. Esatto. Quanti anni fa il Cesa? Non so, adesso glielo chiediamo. Uè, Lore! Uè, Lore un cazzo! Qua siamo in tantissimi, Cesa, tanti auguri! Tanti auguri, Cesa, sei in direttissima! Grazie. Sei in direttissima su Zona Rossa! Gli auguri da Zona Rossa! Gli auguri quale da onore. Zona Rossa! E noi ti chiediamo un regalo che tu fai a noi, quindi comunicaci proprio così, velocemente, la rubrica che nessuno stava aspettando di oggi. Ok, la rubrica che nessuno stava aspettando di oggi. Il protagonista è il laboratorio hip hop di Zam. Ai. Quindi l'attività che si svolge dentro la ZAM è questa. E la domanda è: che televisione guardano le persone che registrano al lab? Che televisione guardano le persone che registrano al lab? Meme, sì. hai qualcosa da dire in merito a questa domanda? Che televisione guardano le persone che registrano al lab? Che televisione guardano? Esatto. Le persone che guardano. Perché Stefano ha la soluzione. Le persone che vanno al lab tendenzialmente non guardano la TV. Aia, questa è la seconda risposta più giusta. Esatto. Cerchiamo di stare più lontano possibile dai problemi e dalla verità. E la prima invece? Però proprio quando la guardano, quelle rare occasioni, guardano Rete 4 barre a testa. Bene, ma non benissimo. Grazie Cesa. Stefano, quanti anni fai? Diccelo. Faccio 29 anni. Cesa, ti sono stati revocati questi Vecchio 29 anni in virtù di questa battuta bruttissima. Niente, non abbiamo è, la non stessa più. Età. Mi hai compiuti 34 subito, incredibile. Eh sì, dai 29 ai 34 un attimo. Sì, ma cosa stai dicendo? Io ho 34 anni, c'è qualche problema per caso? No, no, assolutamente. Si vocifera di una cena, di un menù. Sì. Di qualcosa da mangiare. Vuoi comunicarci dai microfoni di Zona Rossa? Allora, a dispetto dell'odore di pesce che c'è sulle scale di Zam, che nessuno si spiega come sia possibile. È un vecchio classico sarà... di Zam. Esatto, ogni tanto. Chissà perché poi. Secondo me è l'olio di pesce che viene usato per cucinare. Ah, per fare il pollo. No, l'olio vegano che usiamo per cucinare, fatto con... Ah, ok. Lo fanno con le triglie. Perfetto. No, comunque a dispetto di questo odore ci sarà un risotto taleggio e zucchine. E la peppa! Madonna! Molto bene. Stagione, se non sbaglio, di taleggio e zucchine. Cioè. Sì, in questo autunno caldissimo. No, ma dico, si raccoglie di sto periodo il taleggio, no? Fiorisce. Il taleggio sì. Fiorisce sì, si raccoglie in questo periodo. Infatti, si semina a febbraio e fresco, si raccoglie fresco. Il taleggio a luglio. All'orto ho visto che sta crescendo bene il taleggio. Sì, quest'anno abbiamo piantato il taleggio e il puzzone di Moena, ma il puzzone di Moena non è spuntato. Non è spuntato, cazzo, perché ci devi mettere il caciocavallo vicino che... Ah, ecco. Col taleggio non stavano molto bene insieme, se no. Fanno l'affitto di... Sì, invece... Esatto. Dici. No, niente, invece il taleggio è rigoglioso, per cui... Sì, per fortuna, quindi se no ce lo scassiamo. Sì. Esatto. Abbiamo fatto ridere Guglielmo che ci manda delle grasse risate in chat. Grandi, non le leggo perché c'è chi... Ciao Gulli. Niente, Cesa, grazie mille. Adesso penso che tu possa grazie scegliere a voi. No, il tuo brano di compleanno. Il mio brano di compleanno. Sì, dai. Un pezzone. Usteria, ce lo mandi. Un pezzone me lo mando. Non te l'aspettavi, Cesa? No. Non me lo aspettavo. Beh, allora, la canzone è una canzone dei Dropkick Murphys che si chiama The Warrior's Code. Arriva in questo periodo mi sto riascoltando i Dropkick Murphys e mi stanno scimmiando dopo anni che non li ascoltavo, quindi questo. Beh, dai, loro spaccano, poi hanno anche questa cosa che sono antifa che ci piace ancora di più. Sì, esatto. Non so, tu l'hai visto il video del loro concerto? Dove... Quello dove croccano fasci che sono sopra. Quel video lì intendevo, bel video. Un bel reperto. Ho trovato il vinile. No. Hai trovato il vinile del concerto? No, sì, esattamente. Hai trovato il vinile con cui sono stati decapitati i fasci sul palco al concerto dei Dropkick. Esatto. È un vinile video, tra l'altro. Esattamente. Bello. Quindi se vi collegate in qualche modo forse vedrete anche il video, forse no. Stefano, tantissimi auguri, grazie mille. Grazie. Zona Rossa ti festeggia. Grazie a voi. Ammazzeremo qualcuno in onore tuo sicuramente. E ci strafocchieremo il risotto anche in nome tuo, in tuo onore. Esatto. Certo. Grazie mille. Va bene, grazie a voi. Ciao Cesare. Ciao. The Warrior's Code. Beh, riproviamo a chiamare Gioia. No, scherzo. No, Gioia, affanculo. Insomma, Zona Rossa non ti merita. E quindi proviamo a chiamare di nuovo Andrea. Chissà cosa stava facendo Gioia. Secondo me è qualche... c'è assemblea stasera, sì, ce ne sono parecchi. Non una di meno, però non è che qui ci vale. Qui squilla. Ah, qui squiglie. Qui squiglie. E pinti in lacquere, qualsiasi cosa voglia dire. Tutte cose. Pronto? Ciao Andrea, come stai? Ciao, molto bene, voi come state? Siamo già in onda? Sì, col sì, telefono sì, sì, così sì. È brutto. Col non telefono c'è... un po' la brutta, esatto, non c'è il prima. Se mettiamo talk, dobbiamo parlare. Però dai, tanto siamo tranquilli. Scusa per l'anticipo, però abbiamo anticipato la puntata perché abbiamo iniziato con un'intervista a un amico di Gigi che è a New York e quindi abbiamo fatto un paio di domande. Purtroppo non l'ho sentito, purtroppo no, sentirò il podcast. Assolutamente, te lo invierò personalmente. No, ma appunto volevamo approfittare non tanto dell'intervista in sé, ma per chiederti un po' qual è, diciamo, la tua opinione su quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Insomma, se hai seguito la cosa, che opinione ti sei fatto? Sì, certo, ho seguito la cosa, ci mancherebbe altro. L'opinione che mi sono fatto è che, insomma, non sono delle novità, non avevamo dubbi che la polizia americana, e non soltanto quella americana, sia estremamente razzista e soprattutto che applichi delle modalità di soppruso e di autorità allucinanti su vasta scala. E mi sembra particolarmente interessante però che questa volta siano seguite delle rivolte di massa e che continuano, e che quindi la cosa interessante di quello che è successo, anche se mi fa veramente male dire interessante quando comunque si parla di persone ammazzate, quindi non è che è un evento interessante, è un evento tragico, che però diciamo che questa volta quantomeno ha scaturito una reazione di grande entità, e questo credo che sia molto importante, che abbia un valore estremamente interessante sia da un punto di vista politico che da un punto di vista umano che da un punto di vista etico, e appunto con un punto di vista di, potremmo dire, di come la rivolta del singolo crei la comunità. Poi chiaramente il parallelismo, però la cosa a cui ho, non il parallelismo perché non esiste parallelismo, però quello a cui ho pensato e che mi hanno fatto pensare anche tante persone che conosco, che leggo, che sono afrodiscendenti e che vivono in Italia, che qua la situazione non è tanto meglio, cioè la situazione anche qui nel nostro paese è una merda, e che c'è assolutamente, come abbiamo detto già più volte quando ci siamo sentiti, una situazione di utilizzo della forza e della violenza da parte delle istituzioni contro chi è afrodiscendente, che è sicuramente più asimmetrica rispetto a quella utilizzata per altre persone, anche se, e poi sto zitto, ovviamente sappiamo bene, lo sappiamo soprattutto, lo sapete tutti voi che ascoltate e voi che fate la trasmissione, insomma, che la polizia italiana, come la polizia americana, non attua soprusi e violenze solamente su questioni razziali, ma in generale su questioni di classe, di appartenenza e di identità politiche. In più, a volte, anche solo perché sono degli sbirri maledetti, applicano violenza sui corpi delle persone che incontrano, anche a caso, soltanto perché vivono un delirio di onnipotenza e di abuso di potere. Quindi, insomma, questo era giusto per far capire quanto mi stanno simpatici. Sì, esatto, l'elenco degli abusi di potere giornalmente viene esteso, continua a essere così. Poi in questo caso abbiamo tra le mani effettivamente una cosa che sta accadendo dall'altra parte del mondo, che va avanti da giorni, le informazioni che ci arrivano in qualche modo vengono filtrate, cerchiamo di filtrare noi. L'esperienza che abbiamo avuto all'inizio della puntata ha avuto secondo me molto senso, perché parla una persona che è direttamente lì. In questo caso con Guglielmo abbiamo pensato di fare questo ragionamento insieme, e lui poi ovviamente parte dal dato antropologico del tuo mestiere e si chiede, anzi ti chiede, perché esiste la polizia. È una domanda bella importante, ovviamente, per arrivare a parare all'altra domanda che è riferita agli ultimi e freschi aggiornamenti che abbiamo avuto appunto dall'altra parte del mondo, è che è come si può vivere senza. Beh, allora, sì, peccato che non c'è Guglielmo. No, anzi, poi ti dico anche cosa, perché lui, ti anticipo anzi, perché mi ha scritto, digli che ero triste perché senza polizia non c'è stato e neanche rivoluzione, non c'è stata neanche rivoluzione, e io sono per lo Stato, almeno tanto quanto sono per la rivoluzione, così risponde già. Subito, non vedo l'ora comunque di vederlo fisicamente e poterci prendere a pugni quando cioè, perché, comunque ti ascolta perché... In radio non funziona prendersi a pugni, purtroppo, sennò... No, esatto, cioè, il bello è che poi oltretutto purtroppo è più grosso di me, ma comunque in questi anni ho messo dei calli interessanti, secondo me, quindi, cioè, faremo del male a vicenda in modo interessante. No, vabbè, a parte le cose che dice Giulio, che poi non le sento, le possiamo tutti, almeno noi ci auguriamo che non pensi queste cose, però cerco di fare il serio. La questione del perché esiste la polizia, a parte che c'è un libro di Didier Fassin molto interessante, giusto per dare degli spunti di riflessione a chi vuole approfondire la tematica in modo molto più serio di come lo posso fare io, che si chiama proprio la polizia, adesso non mi ricordo come si è tradotto in italiano, comunque la forza di polizia o qualcosa del genere, comunque Didier Fassin polizia lo trovate subito, che è tutto un suo lavoro etnografico, antropologico sulla polizia nelle banlieue e tendenzialmente gli sbirri francesi. Molto interessante, io sono critico su certi aspetti, soprattutto sul come ha fatto ricerca, ma detto questo è un libro veramente interessantissimo e che dà un sacco di spunti. Un altro libro che mi era piaciuto ai tempi, che avevo trovato interessante, era quello di Palida sulla polizia e sui corpi di polizia in generale, insomma, comunque ci sono questi due libri, ve li consiglio. Poi sul perché esiste la polizia, e qui appunto con Gulli non faremo fatica a trovarci d'accordo, perché esiste lo Stato, perché esiste appunto qualcosa che governa le nostre vite, che a volte si può chiamare impero, a volte si può chiamare monarchia, a volte si può chiamare Stato democratico, però il fatto è che fino a che non vivremo in una situazione in cui non c'è l'autogestione, la condivisione anche del diritto, quindi della gestione del diritto e anche della repressione, è chiaro che c'è bisogno di delegare qualcosa, e questo qualcosa è un potere, a una polizia che deve obbedire agli ordini, che poi storicamente sappiamo che a volte la polizia si rivolta e quindi non obbedisce più agli ordini e porta a delle rivoluzioni, possiamo chiamarle, che possono essere fasciste o non sempre fasciste. E giusto per dare qualche dato, per esempio mi viene in mente quando negli anni 70 c'erano i proletari in divisa, credo, se non ricordo male, vicino a Lotta Continua o di Lotta Continua, magari qualche ascoltatore o ascoltatrice più preparato di me mi può smerdare, ma mi sembra di dire una cosa giusta. Comunque proletari in divisa erano appunto militari e poliziotti, soprattutto militari, comunque militari dell'esercito, che però erano comunisti e quindi stavano dentro l'esercito ma speravano di rivoltarsi a fare la rivoluzione, quindi come vorrebbe il nostro amato Gulli. Detto questo, il mio problema invece antropologico sull'esistenza stessa della polizia sta nel fatto appunto di una vita che delega la gestione del diritto. Ci sono un sacco di libri super interessanti che parlano proprio di questo, che è quando non c'è lo Stato, quindi le società senza lo Stato hanno la polizia, cioè le società non statali, e quindi parliamo di società indigene sparse per il mondo, hanno corpi di polizia? No. Hanno tribunali? No. Cos'hanno? Hanno comunque delle norme scelte collettivamente, e che è tutta la comunità che si occupa di farle rispettare, con delle figure transitorie che non hanno il potere decisionale, ma che devono fare i paceri dei gruppi e quindi devono portare pace dove ci sono delle problematiche, delle contese. E poi c'è una cosa che Holterman chiama il diritto consuetudinario, che appunto non è uno stato di diritto, ma è il diritto della consuetudine della comunità, e quindi dove c'è appunto non c'è bisogno di avere corpi di polizia o eserciti. Detto questo, però, è anche vero che nella maggior parte delle società indigene si crea proprio uno stato d'eccezione nel momento in cui inizia una guerra fra bande, una guerra con un'altra tribù, una guerra con una popolazione vicino. In quel momento si crea un pericolo che si creino dei corpi di polizia, degli eserciti, dei piccoli eserciti, insomma, per adesso stiamo parlando di comunità di poche centinaia di persone o qualche migliaio, quindi comunque non qualcosa di paragonabile agli Stati Uniti d'America o all'Italia, che ha una marea di poliziotti, carabinieri e finanzieri. Quindi, insomma, diciamo che è proprio l'atto guerresco e il conflitto bellico che porta a uno squilibrio nelle relazioni di potere anche nella società dove la polizia e la delega non esiste. Quindi la cosa migliore per non avere la polizia è cercare di creare dei corpi sociali che si sappiano realmente profondamente autogestire, sappiano appunto fare a meno della delega nella repressione, perché sono società che hanno la capacità appunto di autoregolarsi. Mi rendo conto che questa cosa è molto complessa, sembra quasi impossibile al giorno d'oggi poter fare qualcosa di simile con delle società, con delle megalopoli come le nostre, con delle popolazioni così enormi. Però si può pensare sempre a un discorso appunto su base federalista, non federalista di quelle merdi della Lega, ma federalista di Sodignano a memoria, dove si pensa a autogestire federazioni, tante federazioni, oppure il discorso del confederalismo democratico. Comunque sia, la questione poi delle milizie, dell'autodifesa e tutto rimane sempre una problematica che non è facile da eliminare. Quindi la polizia comunque esiste perché c'è uno Stato che ha bisogno di difendersi, e questo Stato ha bisogno di difendersi, e per difendersi ha bisogno di servi pronti ad obbedire, e soprattutto appunto negli Stati che noi conosciamo, dove viviamo, c'è lo Stato italiano, lo Stato del Minnesota, sicuramente hanno delle polizie che obbediscono agli ordini e che sono particolarmente abituate a utilizzare il soppuso di potere. La seconda domanda qual è che era invece? No, la seconda domanda penso che tu abbia già risposto, perché era nel momento in cui appunto non dovesse esserci, aspetta che riprendo proprio, come si può vivere senza, gli esempi di secondo te o comunque quelli che nel mondo esistono di più, però certo. Già abbiamo già risposto, c'è appunto il confederalismo democratico, però penso che sia un po' più delicata la questione come vivere senza. No, secondo me infatti adesso non voglio poi renderla troppo semplice, cioè io sono convinto, per esempio sono abolizionista sul carcere, non credo che il carcere vada abolito e credo anche che tutti i corpi di polizia vadano aboliti. Detto questo però non ho più 19 anni, ne ho 15, con tutto il rispetto per i 15 anni e 19 anni che ci ascoltano, che non voglio dire che siano meno preparati o meno intelligenti, però diciamo che a 40 anni ti disilludi su certe cose e soprattutto sei un pochino più purtroppo pragmatico, e quindi mi rendo conto che io continuo a essere proprio super convinto e abolizionista del sistema carcerario, ma mi rendo anche conto che se domani sparisce la polizia, sparisce il carcere, tendenzialmente in un momento storico come quello che stiamo vivendo mi rendo anche conto che di sicuro non saranno gli anarchici gli autonomi a governare l'autogestione, ma che tendenzialmente saremo i primi a soccombere visto come è la situazione, e quindi sono, credo, anche in un processo di cambiamento, in una mutazione che sia appunto passo per passo, non è che di botto possiamo eliminare tutto, perché se no non riusciremo, perché non siamo abituati, abbiamo bisogno di educazione, cioè noi abbiamo bisogno di una pedagogia dell'autogestione, di una pedagogia della distribuzione del potere, di una pedagogia della fatica che si fa a vivere senza delega, perché questa è un'altra grande verità. È inutile dire cazzate che l'autogestione è facile, l'autogestione è difficile, faticosa e ti rende la vita molto più complessa ma anche molto più bella. E la libertà è faticosa, perché la libertà si conquista, e quindi chiaramente già a partire da questa prospettiva ti fa capire come il percorso è lungo, ma io credo che sia l'unico percorso possibile. Ti troveresti un sacco d'accordo con un compagno che ci ha accompagnato nelle ultime due o tre puntate, ma che oggi purtroppo è appunto a un'assemblea, ne abbiamo discusso ieri quando è uscito ovviamente il caso di Minneapolis, e anche lui sostiene che non è un processo che può avvenire né dall'oggi al domani, ma neanche né tra mese a mese, è un discorso che appunto, riferendosi a Rojava e al nord della Siria, va avanti nel giro di tantissimi anni con i loro morti, i loro problemi, i loro passi indietro, i loro passi avanti, e hanno raggiunto quello che adesso dovrebbe essere tendenzialmente quello di cui si sta parlando ora a Minneapolis. Sì, assolutamente, ma infatti io poi, detto questo, non sto dicendo che non mi andrebbe bene se domani cambia tutto, no? E di botto non esiste più il carcere e la polizia, mi farebbe piacere, più che altro sarei un osservatore molto attento a questa cosa, però mi rendo anche conto lucidamente che non posso neanche dire che basta che non c'è più il carcere, non c'è più la polizia e il mondo è liberato, perché purtroppo il problema non è solo questo. Purtroppo. Beh, dai, che dire? Ci sta. bella sì, puntata, bella, difficile aggiungere altro. Difficile aggiungere altro, esatto. Però una cosa invece l'aggiungiamo, che è la canzone con cui ti liberiamo da questa agonia che è Zona Rossa, che quasi sicuramente avrai preparato, perché ormai ci sei abituata. Anzi, è due settimane che non ci sentiamo, mi sa. No, infatti non sono affatto preparato in questo momento, però posso pensare a cosa ho ascoltato oggi, esatto, e vedere di riciclarmi così, oppure fare divertire un attimo gli ascoltatori e le ascoltatrici, visto che parlavamo di cose che non vogliamo più. Sì. Non abbiamo citato una grande cosa, che è la Chiesa, come istituzione. E quindi io direi che potremmo mettere una canzone molto divertente che si chiama Il Vaticano brucerà. Potrebbe essere apprezzata. Sì, secondo me piace. Quindi andiamo io, a cercare la canzone. Roba vecchia, Stornelli, proprio di quello. Va bene, va popolo, bene. Però secondo me anche fin troppo violenta, ecco, anche qui. Da un certo punto di vista, per me ultimamente sarà che sono cambiato su certe cose. L'ascolto mi piace, ma è addirittura fin troppo violenta per i musici adesso come adesso. E invece la cantavano nelle osterie, quindi. Adesso arriva Andrea, ti ringraziamo tantissimo, grazie sempre per il tuo tempo. Ti salutiamo Guglielmo, ovviamente, con tanti insulti, e sperando che tornerà anche lui a condurre un po' Zona Rossa con noi. E ma perché sta continuando a lavorare? Sta continuando a lavorare, sempre... perché preferisce il capitale che l'auto-organizzarsi, fare la fame con... Lo sappiamo, ormai l'abbiamo capito. Lui è finito a Zan per sbaglio, lui vuole sì, lo Stato, esatto, lui esatto, vuole il lavoro, vuole i soldi, cioè, vuole la polizia, vuole i soldi, cioè, probabilmente avrà anche dei conti in Svizzera. Ah, questo guarda, poco ma sicuro. Temo di no, purtroppo. Grazie Andrea, va bene, a prestissimo. Ciao. Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le leggi, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo i poveri. Rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. E il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. Sono stato sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo, anche lui era un socialista, e morì per la libertà. Prete, tu mi farai morire, prete. E sopra bruceremo le chiese, andiamo a disturbare una nostra stella. Mi farai morire. Pronto? Ma bentornata su Zona Rossa! È la mia radio preferita, ma che bello, è la migliore. Ciao amici! Ciao Silvia! Ciao Silvia, tutto bene? Ciao, bene voi? Ma bene, sì, bene, sì. Bene, oggi bene. Siamo light, siamo leggeri, siamo in chiusura, volevamo farvi fare i saluti finali della puntata, solo a voi. Oh, che bello, sono onorata, ragazzi. E Dario dov'è? E Dario sta arrivando, sono qua in Gargano, sotto da sua madre che lo sta aspettando, che stiamo per andare a cena da lei, e sta per arrivare. Cioè, hai capito dove arriviamo? Ora sono felicemente seduta su una panchina. Tutto questo è bellissimo, quindi sei fuori, sei all'aperto. Esatto. Dopo telefonate di mesi e mesi in casa, oggi ti troviamo fuori. Madonna, veramente. Quindi quando guardi il panorama, che musica ti viene in mente, che canzoni ti viene in mente per salutare una puntata che ha parlato di assenza di polizia, di abuso di potere e degli Stati Uniti? Oh madonna, mi verrebbero i Rage. Ah, attenzione. Con una roba molto... Che ho già detto, tra l'altro, all'inizio della quarantena avevo detto, mettete Beccato Dio, raga, non ho più memoria. Dai, raga, come si chiama la canzone più famosa, Dio mio? Quella che abbiamo usato anche per il video? Smack My Bitch Up. No, quella è dei Prodigy. No, quella no, quella è dei Prodigy. Ragazzi, non scherziamo. Oddio, ragazzi, assistete la mia insanità mentale. Però abbiamo fatto un video con i Rage. Che adesso... Che fa? Dai, raga, ve la sto anche cantando in radio, che imbarazzo. Ma guarda che e gli ascoltatori e le ascoltatrici diranno: ma questa Disney che non sa manco il titolo della canzone. Beh, se killing in the name. Ma Silvia, se invece lo facessimo tipo Ciao Boots, vedi, la facciamo cantare da te, non la mettiamo la canzone. Però con anche il malo inglese con cui la canterei. Certo. L'inglese è scorretto. No, raga, veramente mi sta facendo impazzire questo vuoto di memoria. Ma se invece ne mettiamo una che è appena uscita con il cantante dei Rage e i Run the Jewels? Quella. Ma io direi anche di sì, ragazzi. Direi che è bella, perfetto. Beh, direi che è bella, perfetto. Dai, Run the Jewels, Run the Jewels 4 è il disco e la canzone si chiama Just. Con Pharrell Williams e Zach della Roca. È il nuovo disco che... È il nuovo disco che hanno fatto uscire. Esatto. Hanno fatto uscire prima, praticamente, in modo tale che a offerta libera. Cioè, noi hanno fatto uscire il disco che, tra l'altro, io e Nino abbiamo anche comprato. E ci arriva a settembre. Però siccome ci sono state le rivolte... Ecco, siccome ci sono state le rivolte... Allora hanno detto, facciamo uscire prima in offerta libera, i soldi li diamo un po' così... Per i ragazzi che fanno le rivolte. Cioè, capito? Chi sta, ragazzi? Salutaci. Allora spariamola sta canzone. Sì, spariamola di brutto. Salutaci Daccio. Ve lo saluto. Ma ciao, passacelo. Ciao, ragazzi. Ciao, Dario. Ciao, come stai? Aspetta che metto via voce. Vai. Ciao, ragazzi. Come stai? Tutto bene? Sì, dai. Bene. Hai finito l'ora di lavorare? No, ho finito alle 5, normale. Ah, ok, poi ti sei fatto la pennica, la docettina. Esatto. Sigarettina simpatica. Guarda, se arrivavi 30 secondi fa, sceglivi tu la canzone, invece la sceglie, l'ha scelta Silvia e Gigi gliel'ha appoggiata, quindi mi spiace, ma è andata, dovrete sentire questa. Però connettetevi così, ve l'ascoltate, esatto, perché è una bomba. È una bombazza. Absolutely, anzi, mettete amici. Giù, vi diamo quei 5 secondi di attesa e intanto salutiamo, dai, e poi potete metterla, va bene? Dai. Raga, ci vediamo presto. Bene, buona presto, serata, ciao, presto. Amici. Ciao. Vi ho messo giù malamente, non volevo farlo così bruscamente. Però ci sta, niente, che dire, grazie a tutti, grazie a tutte, grazie Meme, grazie Chiara, grazie Hank, Gigi, grazie mille, grazie a te, grazie alle varie persone che vi hanno chiamato, grazie al Fuma, grande diretta Fuma dagli mitico. States, grazie grande. Andrea, grazie ai Pischelli che sono in montagna, salutiamo... Tra l'altro tutti Andrea erano oggi, Esatto, vero. Cioè, anche Scolari, Andrea Vlad Scolari. Salutiamo il dopolavoro Stadera che ha ripreso a provare qua. Siamo contentissimi. Run the Jewels, tutti per voi. Ci sentiamo mercoledì prossimo. E a domani con alzate le Ribelli. Alzate i bassi. A venerdì con Circuit Gang, Radio ZM, tutta per voi. E domenica c'è Up Underground Push. Esattamente. Took yourself from squalor, slay. Mastered academics, cause your grace said you were scholar, slay. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Shit. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Been it time, I'm on mine, I be minding mine. Every time, on my grind, I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dimes. The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself many times. Am I a hypocrite cause I know I did plenty crime. I get broke too many times, I might slay some pine. You believe corporations running marijuana. Your country getting ran by a casino owner. Ooh. Pedophile sponsor all these fucking racist bastards. And I told you once before that you should kill your master. Now that's the line that's probably gonna get my ass up. Master of these politics, you swear that you got options. Right? Master of opinion, cause you vote with the white collar. Right? The 13th Amendment says that slavery's abolished. yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Confucius say, man, you better thug out. Get the bag and the bug out. Try to run home, you might run your luck out. Just when your base is loaded, they'll roll a grenade in the dugout. Earth folk, not a mellow bunch. We got our thumbs in the air like hella bust. Look at who we done blessed with our trust. I don't think we'll be left with too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a vodka gut punch for your Atlas shrug. Love or not love, it's just that dumb. Lord, sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a city in Roomba. Just found out it's created stupid. Lit by the supermoon, I'm too lucid. Plus got shrooms in the blood, I'm zooming. BP, Richie, this is New York City. The X on the map with a pain keep in it. Just us ducks here sitting. We're murderous. Choco cops still earning a living. Funny how some say money don't matter. That's rich now, isn't it? Get it? Comedy. Try to sell packets. Supposed to get food, get killed. It's not an anomaly. Hey, it's just mastered money. Mastered economics, cause you took money. Yourself from squalor. That's right. Mastered academics, cause your grade said you were scholar. That's right. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Yeah. Look at all these slave masters. Yeah, yeah. Let it sink in. 2020, on the map. Wrong one, cut in my hourglass. Don't watch, it's filled to the bottom half. You see the piece now. Tarmac, get a starter jack. C4 when I run it back. Like a track star on a record lap. Nah, like when it's deal catch. Clean look, poor pugilist. A shooter's view is a brutal flick. Too rude for your rudiments. Who convinced you you can move against the crew in this? Coming up through the fence. Offshore out of Port-au-Prince. Overjoy left his fingerprints on the hearts of the gate in the world of residence. How can we be the peace when the beast gonna reach for the worst? Tear all the flesh of the earth. Stay set from a deafening reckoning. Quick like the pace of a verse. So questioning this quest for things is a recipe for early death threatening, but the breath of-